Abbiamo pensato che fosse ovviamente un'iniziativa anche simbolica. Consegneremo libri che ovviamente si occupano, si interessano di temi legati alla nostra, alla nostra lotta. Ognuno di noi ha scelto un libro e saranno comunque tutti libri legati a questi temi e anche al tema specifico del quartiere, di com'era il quartiere, di come si è trasformato, per cui diciamo il focus sull'ambiente e sulla natura sarà molto importante, ma anche sulle trasformazioni che subisce una città quando le scelte vanno verso uno sviluppo soltanto di tipo così utilitaristico, diciamo. E oggi io consegnerò Fitopolis, il libro appunto di Stefano Mancuso, La città vivente, perché così vogliamo innestare, diciamo, iniziare un dialogo sulle tematiche dell'ambiente, sulla necessità che le nostre città si sviluppino in un modo molto più verde e meno legata a uno sviluppo solo di aumento di strade, di cemento, di immobili, consumo di suolo e così via. Per cui è così un tentativo di aprire un dialogo su questi temi. Un dialogo che finora non c'è stato molto. No, che finora non c'è stato, indubbiamente. È parecchi mesi che noi siamo concentrati su questa tematica e parecchi mesi che siamo presenti nel parco, e questo però ci ha permesso anche di conoscere molto bene questo territorio, gli alberi che lo popolano, gli uccelli, tutti gli animali, no, che sono legati a questo ambiente. Ovviamente questo vale anche per altri ambienti di Bologna, non è solo il nostro parco, ma ovviamente noi abitando qui stiamo in particolare, stiamo diciamo resistendo al progetto del comune, perché anche diciamo abbiamo un legame anche particolare con questo parco. Lei è un medico e allora sì, le chiedo che importanza ha quel parco per quella zona di Bologna. Come medico devo dire che sono particolarmente sensibile al tema del legame tra ambiente e salute. Diciamo è un legame che è ormai noto a livello scientifico, ci sono dei dati specifici sull'argomento. L'allontanamento dell'uomo dalla natura ha portato a un aumento di tante patologie anche abbastanza gravi, perché voi sapete che quando c'è il picco ad esempio di alcuni inquinanti l'atmosfera, c'è un picco di accesso al pronto soccorso di infarti, di ictus e poi a lungo termine invece tumori di alcune parti del nostro corpo, vescica, polmone. E però c'è anche un legame a distanza con la nostro, con il nostro essere uomini, persone immerse in un ambiente e dunque molti disagi psicologici, insomma è un tema molto importante. L'uomo lontano dalla natura soffre in vari modi.